Io sì, e voi? Io non vedi troppo veloce, mi. Sono bucchesi, andi da pura. No, dai, gatto. Mi che tu mi tirassi la pezzi, fate come la manzano. Ah, è vero, Non è che sono? No, sono con Paola. Sempre meglio di stare con te. Pensavo che stai riparando in mezzo alle cortine. Pareti a pegare aria. Ui. Luca Maglio! Attenta, guffetta, guarda che facendo! Grazie alla guffetta! Beh, quel sito, guardato te l'hai, quello del lavoro, del panettiere! Beh, se mi vuole almeno 2000 me deve dare, non 1004! Come apprendista, poi non lo so quanto tempo ci passa, che diventi operaio, ti aumenta lo stipendio a 2000, funziona così, lui sta cercando l'apprendista, se poi tu rimani lì che impari, poi scatta l'anno d'anzianità e la qualifica operaio, e allora pigli di più. Beh, io già mi arrangio a fare panettiere, l'ho già fatto, aiutante, ha voglia. Sopportare su l'impasto, metterlo nel macchinario, non so come funziona lì, boh. Penso che sia una cosa sempre a... come si dice, una... bah, affannato, mi viene la parola, vabbè. Lo fanno loro a mano, là, artigianale. Ma c'hanno anche l'impastatrice, macchinari, ci sono lui e il cognato, così io ho letto. E non riescono a trovare un ragazzo apprendista a imparare il mestiere. E poi chi, secondo me, ci andi, ti stabilisci anche lì. È un paese in montagna ed è bello. Secondo me, se ci vai, stai bene, secondo me, tanti no, che non fai un cazzo, fissati siete, rimani in occhi, andai a travagliare a due città di cazzo, lì lavori 8 ore, e sei bagato, e quando esci di andare a casa tua, poi non hai detto che devi rimanere lì, no, lì ci sono i pullman, se da voi vai la macchina, ti sposti, vai nelle città vicino, aspetta che abbasso qua, tutto, se non ti sento. Lo so, grazie, io mi arrangio, io, vabbè, quando ho iniziato io, tu pensa che ero, quanti anni avevo, 15 anni, 14 anni, circa, e prendevo 70.000 lire alla settimana. Vedi, però qua, cazzo, 1400 lire non sono da schifo, no? E poi lì, anche prendendo una casa in affitto, paghi due citti, anche i paesi si stanno spopolando, capito? Tutti i vicini si andano in città a studiare, a laurearsi e quel mestiere non ne vuole fare. Secondo me è buono. Io ero stato travagliando ed ero durato giovane, non dica sai, un 30 anni. Io ci sarei andato, non è che poi mi ci ha presalito la famiglia. Cazzo, no, che non fai un cavolo. Lo so, purtroppo, non c'è niente, no. E ora ci vuoi fare? Casino, è un casino. Cazzo, fa un viaggio, fa recuperare un viaggio a chi no, che non vedrà nulla, che andrà a consumare. C'è di un continente, a usare i viaggi che fa di adugnati. Il continente della Sardegna scendevo solo quando recuperavo un viaggio per la Sardegna. Anche se no la bastava a pagare la nave, il viaggio, il gasolio e le autostrade. E quanto tempo ci ho lavorato fuori? Un casino di tempo. Stavo fuori una, due, pure un mese. Li portati in via travaglio e soldi li rimandavo a Paoletta. Anzi, io risparmiavo anche a chi noi era sempre che dormia in pensione. Molte volte secondo il carico che avevo mi dormivo nel camion un paio di ore e poi partivo. E lì è buono, cazzo. Se quei anni tornando in reggio ci sarei andato al volo io. Lo so, però non è tutti che partono fuori. Guarda che la terra è di tutti, dove vai vai, l'importante è che uno abbia il lavoro, la casa e so che avrei e che non ti manca nulla, vivi dappertutto. Non è detto che non è nato in occhio, devi morire in occhio. Infatti, uno deve stare bene alla fine. E poi magari lavora fuori e si fa i suoi anni, poi andrà in pensione e se ne torna qua. Quanti l'hanno fatto in Germania? Sono stati anni e anni fuori. Se hanno preso la pensione e se ne sono tornati qua in Sardegna. Stanno bene, hanno la loro casa comprata, hanno lavorato. Cioè, e niente, stanno bene. E lo dice a me, io ho due zii che hanno lavorato in Germania, Villaretta, Avani, a Borore tutti e due. E di Naretti, testa di Naretti, se no la pensione, vai a vedere chi mette pensione, chi piglia. Ne hanno lavorato in miniera tutti e due, e poi uno ha trovato lavoro all'ippodromo e lavorava all'ippodromo come fantino anche. E l'altro normalmente che fabbrica era riuscita a entrare a farmaceutico, di farmacia, e picchiava una vacca di dinà, vai a vedere le ville che c'hanno a Borore, vai, nella zona dove sono tutte villette, che rimane a bocca a biscia. E quelli erano sempre in Germania, e qua venivano in ferie, il periodo estivo. Lo so. Lo so, il discorso è che se uno non lavora qua è costretto ad andare fuori. Vabbè, diciamo che meno male io non ho famiglia, sono stato costretto. Ma comunque io conosco gente, tipo una ragazza, vabbè, c'ha tre figli mi sa, o quattro, Barbara si chiama, è andata all'estero comunque, aspetta, se dico dov'è. Nottingham. E i miei nipoti, tutti e due, sono a Londra e dove lavorano fanno anche dei bonus, dei premi li danno. Amalia, mia nipote, a una, gli hanno dato già tre premi per via del lavoro, che è brava, capito? E questi premi consistono in viaggi, l'ultimo viaggio si era fatto in Egitto, 15 di e da Grubicino, 15 giorni di bonus perché ha vinto il premio, si è fatto e se li ha passati tutti quanti in Egitto, dove ci sono le torri, al mare, e l'avete bussato da cammello e volando con quella specie di aereo che ti tira, poi ti molla e voli, no, sul mare voli. Certo, e chi da strada, a poco era in Thailandia, l'altra mia nipote invece gli hanno dato il biglietto per due, sempre lì, quel ragazzo in Thailandia. Devi vedere tutte le foto che mi ha mandato al ristorante di lusso, si paga due citti, capito? Eppure quella 15 giorni, ogni tanto gli danno questi buoni, vacanze. Vabbè, qua non fanno niente, assolutamente, non fanno niente. Mi sa che stanotte mi piglio la pizza e i frutti di mare. Stanotte leggero, ho preso le cose, mi faccio due toast. È leggerissimo, a mezz'ora ci mangiato una fettina impanata leggera di pollo con l'insalata e un pezzo di bani e la frutta, il melone e una fetta di anguria e una pesca e vetro fugata, mangiamo bene o quasi. Mi devo mangiare leggero, io già sto qualche chilo lo sto perdendo, dai. Ho 5 kg in meno da un mese da questa parte. Vedi, sto mangiando cose così e vado la pasta a fare un tamburo, pare che mi ha mangiato un bui. Sarà l'acqua ne sto bevendo parecchia. È fresca. Leva. Lo so. Vabbè, guarda che bella, ma la bevo, stanotte mangio la pizza. qualche birretta ci vuole, perché c'è caldo e ci scende. E almeno qualche chiletto lo recupero. Lo so, ma io non mi fido a berne alcolici. Che cazzo tutti i semidigini che piglio, no? Prima già me la bevevo, magari se capita l'occasione, se sono fuori una pizzeria o un ristorante e in compagnia, una data me la posso fare. Ma sempre a rischio pericolo mio, capito? Ma in casa no, non i vico né birra né vino, pure ce l'ho. No, l'acqua, sto prendendo troppe medicine. La giocana di gribba lunga si accusa. No, non fa. Grazie, non è che crepi, scusa, se uno si dà una regolata, senza abusarne, va anche bene, capito? Pensi che male di più i dossimi, non tanto l'alcol, ma i dossi. Proprio oggi no, mi ha mangiato un gelato alla crema stasera e due caramelle. E proprio ma non sa sempre mi veniva, invece mi ha detto sempre drago e niva. Ma non mi fido, troppe medicine c'ho ancora, adesso quando vado alla visita, se mi ne vuoi anche caduna, già qualche volta già me l'assaggio un po', ma da poco l'ho assaggiato un dito di vino, pucci. Non mi piace di blu, piace buono, però non mi piaceva a me, non mi ci parava. A chi so l'effetto delle medicine che ho, capito? Lo so, ma se abusi anche i dolci fanno male, no? Anche i dolci, ma no, io l'abuso assai, no, ma io dico sì, però lo assaggio, ma non che me ne mangio 4, 5, ma di pasticcini. Se me ne vanno giù, se ho fisso il trucco, tanto mi assaggiare, perché poi mi misuro la glicemia e me lo segna nella macchinetta. Quando ando a guidare, se mi controlla la macchinetta, perché vuole la macchinetta, perché nel quadernino poi scrivi che sui tibiati la macchinetta non puoi cancellare e me ne mangiare un gabbo. Beh, certo, ci mancherebbe. Oia, vabbè. Che casino. Per dire, una volta, la penultima volta gli ho detto, dimenticatamelo sul tavolo. L'ultima volta avrei già regalato e mi ha detto, però qui la notte mi sembra un po' altuccia. Sto prendendo il cortisone, no, non glielo ho detto e poi non lo legge in quei fogli che sto prendendo il cortisone. E quello già è vero. E mi è passata, ma non è il rimborso di chi so cosa prende il cortisone, no? A chi vuole dagli altri medici che doveva fare le altre visite, li vuole che lui se li guarda, no? Certo. E com'è quello che si compra già altri piccolini, e la bisogna mangiare 20 di una abusata, non ha senso, capito? Vabbè. Ma lì pronta, sì. È inutile che mi piglio. Rigelate meno perché vuoi tenersi di loro spesa, poi mi mangio tutta la scatola. Tanto male se ne mangi un ubaeddu consistente, normale, e se a posto. Infatti comprano quelli piccolini e poi se li mangiano una quarantina uno dietro l'altro. E allora, una volta giubilato un momento che gelati erano tipo pinguini. Erano i miei usi, una succiata non venirà più. È logico da voi andarci in biliardo, due o tre. Oh no! Lo so, un poliziotto è stato picchiato a sangue da un gabbiano. Gambiano. Ma io non lo so, questi poliziotti hanno la pistola, hanno il manganello, hanno tante cose, si battono i culi. Che schifo, va. L'aveva afferrato in bala zappa, l'aveva cutta a terra. Grazie che ci si era da penne senza girarsi. L'avessi bigliato in bala zappa, me l'avessi cutta a terra. Qua c'è in mano canto di piatti, la grampi fa un piede, ricuta a terra, gli anni vorrà a biglia, se no è buono che vedi il rugoso. Ma aspetta un attimo, grazie, mi ha chiamato Marina. Grazie. Dimmi. Sta che facendo? Niente, poco fa stavo aiutando la Paoletta a piegare le lenzuola, un copriletto, quella roba che ne ha entrato da fuori. Ah, ho capito. Aiutami, non ti dare tutti, no, io mi sbaglia tra un po' e pronta, ma sono messo la maglietta, ci usciamo. Niente, oggi sembra fresca la serata. Intendi? Perché farmacia restano in silenzio? Lo sai che le cipolle, quelle rosse, fatte a rosso, fanno bene alle articolazioni, specialmente a quelle delle ginocchia. Oppure all'articolato? Alle articolazioni mie, alle braccia, alle ginocchi, ai polsi, la zio da Ruia. È buona. Capito. Ma sai che ho sentito Gio Maria? Gio Maria? Beh, vabbè che sono entrato in bagno io. Non ho gente da nessuno. Beh, vuol dire non ha gana di entrare. Togni a gallo, il vero mi diventa allucinante. C'è caldo. Rapina una cameriera a Sassari, 26enne, finisce in cella. Certo, a ve la vuoi. Allora, rapina una cameriera a Sassari, 26enne, finisce in cella. E sapete che e quando vai, un negro è originario del Gambia, irregolare in Italia, vai giù, non te lo ho capito. Lui è per carità. Allora vedi, pure irregolare, non va via manco nulla, speriamo che se lo cuidiano a Maria, va. Poi dicono che sono bravi, non fanno nulla. Affugati, non ne fai niente senza niente, non ne fai niente. Ma non l'hai visto già al telegiornale? Non so quanti ne hanno sbarcato a Lampedusa, più di 100. E più hanno bizzicato due barchette e muti, e non so quanti venire nei drenti di barchette. Di notte li hanno illuminati con i fari dalla spiaggia e vedono due barche, carichi pieni, uno innanzi all'altro. E l'hanno guccati, di ultimi. Un bene, stanno arrivando in Sardegna, in base dalla parte di Abartax, Tertenia, da quella zona lì. Hai compreso che è lì a loro, capito? E chi sa quanto ne varano i rivini in occhi? Bubu! Bubu, buonasera! Sei pigiana per dentica, ma non trovi mai voi? Ma si rientra da Valluca, anzi, fra poco Sarra che li vici, non venne nessuno, tutta la sera appoggiato in Natale Mamma, regì, azzese, ma con una bocca per sentirsi. Ecco, dopo 3 ore fa mi intende prima rucchini, cazzo, cosa non fa nessuno, è chiaro i Sassari, sono tutti molti i Sassari, basta da fuori, dopo 3 ore, per le DX, macchia dritta, catta, è pieno, il Brasile, il Portogallo, catta, tutta l'Italia, il canale, su 36, il 36 e il 34. È pieno! Ma è nella 27, beh, nella 27 qualcuno c'è sempre, ma nel PMR non c'è nessuno. Capite le pazienze, dite voi e noi, lo visemi, non quella cruccia, non è che deve essere più lungo, non mi dà pure, fammi da parte fuori con l'altro. Stavo pensando un BMR, no? È per la 27, buono. sì, non può cantare. Io non ho una cantare allora. E chi dà ragione? Luca! Io già mi accendo il telefonino in quel canale là, Decca, ora si chiama. E chi mi va sempre niente? Che ce l'ha mi dà da chi mi chiama la voce? No, per mi lo gusti di chi mi, non mi piace. Non mi piace chi mi, bisogna fare da personalmente. In un baracchino, non al telefonino. Luca! Ma frate se, vuoi mangiare basso al forno? Che vedi? No, mi stavo mettendo la gelatina anche sui ribari che mi sono rimasti. Me la portare via. Ah, paghissimo, tu paghissimo perché merendetti. E invece no, mi sono sbagliato, va. E lui? E allora? Ade fa caldo lui? Sì, Gio Mari, adesso, Marina è pronta, sono pronto. E usciamo un po', dai. Ma penso che stavolta sia arieggiato un po', dai. Sì, speriamo bene, ragazzi. Datemi no che sono con la festa attesa. Dare 4 e se è partita la festa. E ci sta di vetro, Sì, sta bene, c'è quel freschetto. E sta entrando anche la rietta da fuori, per cui adesso lo spengo, la ventola e apro tutte le finestre. Vabbè, sono andati a Platamona? No, su al monte, scusa Platamona, lì al coso, al parco, là. Vabbù, là, ne approfitto, se faccio la portante e vi saluto. Buon proseguimento, a domani se ci siete, là. Ciao. Adesso faccio un salto a casa, che devo prendere una cosa, entro un attimino facendo anche il baracchino, perché non c'è mai nessuno, l'ho comprato per niente quel baracchino, Gio Mari. Forse girà un po' da quel che mi dici, ciao. Ma infatti è pazzesco. Se chiamano qua al senso, perché io accendo uno e l'altro. Quando accendo uno accendo l'altro, così che. Vabbè dai, buona passeggiata, saluto in casa, allora ci sentiamo, dai. Ciao. Ciao Luca, buon proseguimento di serata, buon divertimento. Alla prossima se coincide, ciao. Sì, ciao, ciao, buona serata anche a voi, ciao. Ehi, beh, va a Sarro che oggi fa cosa. Ciao Gio Maria, alla prossima. Sì, ciao, ciao. Hola. Gianmarì. Attenzione, Gianmaria. Porto. Gianmarì. Maria, ma ascolti. Attenzione, Gianmaria, ma ascolti. Gianmaria. Attenzione, Gianmaria. Gianmarì, ma ascolti. Attenzione, Gianmaria. Gianmaria. Attenzione, Gianmaria. Attenzione, Gianmaria. Storie. Sì, ma ascolti. Gianmarì, io ti ascolto. Gianmaria, attenzione Gianmaria. Ehi tu! Ehi, io ti ascolto. Ma non mi senti, no? Sì, stai uscendo con un fischio però. Ehi, adesso aspetto il portatilino. Aspetta, ti chiamo sul portatilino. Graziano, ci sei? Attenzione Graziano. Ma non ti sento io tu. Sì, io ti ascolto adesso. Gianmarì, bene ma ascolti. Attenzione, Gianmaria. Ho detto, c'è la portante poco a poco, però non ci sento. Dovrei uscire bene da qua. Sono dovuto entrare dentro il salone per ascoltarti. Ma con quello stai parlando? Sì, con l'ultimo che ho preso. Col portatilino non ti sento, Otto. Sì, forse c'è qualche cosa qua vicino che copre. Guarda, vedere, adesso mi ascolti. Adesso sei fortissimo. Adesso va bene. Sì, mi sono spostato un po'. Aspetta a vedere che provo da fuori a vedere. Guarda a vedere se mi ascolti adesso. E adesso vai benissimo, a fondo scala. Sì, perché sono uscito nel poggiolo, sono uscito. Aspetta, ti chiamo io. Tagna brucio. È negativo, non mi senti tu là. Come no, da qua io già ti ascolto. Anche poco fa ti stavo ascoltando. Ma poco fa mi senti? Sai quel fischio che c'hai? Stai uscendo, anche poco fa ti stavo ascoltando bene. Attenzione Gianmaria. Gianmarì. Attenzione Gianmaria. Non mi senti l'altro. Ma ascolti, no. Eppure io poco fa ti ascoltavo. Ah, sono con Pantaltino, adesso sono con l'altro, no? Con Pantaltino. Ti chiamo ma non mi senti, capito? Aspetta che mi torno dentro davvero, aspetta. Qua mi dovresti sentire. Poco fa mi ascoltavi bene da qua. Maria, attenzione Gio Maria. Maria, attenzione Gio Maria. Gio Maria, mi ascolti? Io ti sento, ma non tu lo senti a me. Sì che ti ascolto. Con l'altro forse no, boh. Ma con i portatili eri. Adesso sono con l'altro, adesso provo col portatile, aspetta, lascio questo e sparo con il portatile, aspetta. Attenzione Gio Maria. No, io ti sento, tu lo senti a me tu, Se io ti sento, ma tu non senti a me. Perché ti sto ascoltando io? Adesso ti sto ascoltando abbastanza forte. Adesso sì, adesso perché sono col grande sto, capito? Ah, col grande sì. Ah, poco fa ti ascoltavo bene poco fa. Oh, aspetta che vado a parte della sala a vedere un po', vai. Un attimino. Gio Maria. Gio Maria, mi ascolti. Attenzione, Gio Maria, mi ascolti? Maria. Gio Maria. Attenzione, Gio Maria. Attenzione, Gio Maria. Gio Maria. Non ti sento io, No. Allora. Allora c'è il coso delle case che impedisce. Vabbè, pazienza. Ma deve essere dal mio però deve essere, perché io ti sento, tu che lo senti a me, capito? Infatti, non ti ascoltavo. Stavo chiamando, tu mi sentivi però io a te non ti sento. Non va. Per carità, cara. Lo pago la cicca, cara. Lo pago una cicca, però con uno preciso, capita. A Giulio lo sentivo, era in macchina, ma stava girando tutto un sassari e lo sentivo dappertutto. Deve essere c'è qualcosa allora. Ma dipende anche dal punto mio, c'ho le case qua che impediscono molte volte. Vabbè. Dai, abbiamo questo, dai. Almeno con questo parliamo, dai. Infatti, aspetta che accendo l'altro. No, se sei con quello io ti sto ascoltando benissimo tu, ma col portatile non ti sento, capito? Sì, adesso sono dentro nella camera. Ti sento sempre, ti sento sempre. Qua dentro nella camera, vabbè, però l'antenna ce l'hai più alta, quindi è più forte anche di watt. Ma adesso sono con l'altro più grande sto. Sempre portatile. No. Aspetta che accendo l'altro, là. Adesso sono con quello grande. Ma c'è qualche cosa in questo mio occhio, c'è qualche cosa che non va. A Luca lo sento, perché anche Luca ce l'ha viso. Ne avevamo preso tre. Io, Giulio e Luca. Luca lo sento benissimo. Con l'antennino suo, se mette l'antenna esterna non va, però con l'antennino suo sentiva tutti. Io ieri lo stavo provando e funzionava bene con l'antenna esterna. Cosa vi dica? Non lo so. Io ho l'adattatore, a provare con l'adattatore. Dammi un po' di tempo che prendo l'adattatore, glielo piazza per posti se esco. Mi provo a vedere, già sono qua io. Attenzione signor Bacchisio! Oh signor Bacchisio! Attenzione Gio Maria! Gio Maria! Oh! Stai uscendo bene, col grande sì! Mi senti bene? A voglia! Catta, radio 5, perfetta, segnale forte. Te con l'antenna esterna, Vedo un po', Allora già va. A voglia che va. Caspita. Forse buro. Catta, ti immagini già. Non l'ho mai provato qua, Adesso l'ho voluto provare. Già esci, già va bene allora. È fortissima pure. Radio perfetta, proprio, limpida. Mi fa piacere, va. Va bene, almeno so che esce con l'esterna. adesso li sacco questo e accendo l'altro, là che se non mi tocca questa cosa in mano. andiamo. Dai. Allora. Sì, ti stavo chiamando sulla 27. Sì, hai